poi va plaga. Le cose, pessimo gusto. Non credo agli ideali, se sono una scritta crocifissa sopra un muro a cui strappano le ali. Ma la moda delle buone cose di pessimo gusto trova giusto usare la parola come un'arma impropria. Per cosa vuoi che sia, la vita niente non è col lampo di fuori di un'auto a luci spente. Sono sintetici rapporti con le persone come droghe che vanno per la maggiore per l'adolescente. Non credo ai nastri, né nonni di un minore di chi vuole una religione solo per accontentarsi. Non piango Giussani, non tengo giunte le mani, non giuro con mano sul cuore, mano a calore posso scottarmi. Chi alza mani al cielo per alzare l'anima è scacciato dal peso della coscienza del mondo. Non ho comune morale né un dio da pregare. Non credo che alla fine del male c'è una morale comune. Potevi forse pensare non è così, ma qui ci sono le buone cose, il pessimo gusto, il pregiudizio dal sapore ereditare. Potevi forse pensare non è così, ma qui ci sono le buone cose, il pessimo gusto, il pregiudizio dal sapore ereditare. Più chiare solo un sogno, sempre preferiti problemi. Ci metto i dubbi, qualcun altro un giorno mi darà le risposte. Seguo la logica del forse in giorni ben poco sereni, conscio delle accuse che puntuali mi verranno mosse. Ho scelto la tempesta, il vento e il mare ignoto, perché il porto rende vana la mia sete di sapere. Ho imparato a pensare che una vita di preghiere rende l'uomo inerte, lo distoglie dal suo vero scopo. Mi porto dentro il fuoco di chi punta all'infinito, che mi infiamma il sangue e si diffonde in ogni linfocito. Non mi interessa il mito del successo facile, bensì cerco me stesso fuori da uno status condiviso. Chiamami Ulisse, varco le colonne del tuo pregiudizio. Se vorrai seguirmi viaggio soltanto all'inizio. Non ho una meta precisa, l'unico indizio è che non cerco la gloria terrena di una società narcisa. Potevi forse pensare non è così, ma qui ci sono le buone cose, il pessimo gusto, il pregiudizio dal sapore ereditare. Potevi forse pensare non è così, ma qui ci sono le buone cose, il pessimo gusto, il pregiudizio dal sapore ereditare. Sì. Io punto a diventare qualcuno, ma nel senso che ricerco piena identità in un mondo di gente a metà. Credo che un uomo abbia possibilità immense, ma se da sé non lo comprende queste se ne vanno in fumo. Che poi in fondo la comprensione è un'autoconvinzione di trovare la chiave di lettura per il mondo. Ma non ci sono lenti, solo montatura. Se non apre serratura, libera le menti. Occhi diversi, prospettive sempre nuove. La curiosità per imparare in ogni situazione. Dove pensavi fosse tutto uguale, il cielo ha un altro colore. La musica è la vita, cerco il suono nel rumore. Poi del colore perdo ogni sfumatura. Indico mia se la regia c'è un dio che vuole essere dittatore. La religione pietà il tuo corpo libero. Piega lo spirito al paradosso del mentitore. Potevi forse pensare non è così, ma qui ci sono le buone cose, il pessimo gusto, il pregiudizio dal sapore ereditare. Potevi forse pensare non è così, ma qui ci sono le buone cose, il pessimo gusto, il pregiudizio dal sapore ereditare.